La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.32 primi e siamo in diretta agli studi di Milano. Oscar Giannino, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto diretto in podcast e vi ricorda l'indirizzo della versione Oscar @radio24.it per proporre temi di trasmissione. Puntualmente anche la trasmissione di oggi avviene esattamente perché un bel po' di voi, e nella fattispecie piccoli costruttori, cioè diciamo non piccolissimi ma aziende della costruzione che sono ancora in piedi, malgrado sappiate tutti cari ascoltatori, anche se non siete del settore, che è il comparto dell'economia italiana che ha incassato purtroppo negli anni di crisi la più alta perdita di valore aggiunto rispetto al PIL di quello che rappresentava fino al 2011, e le costruzioni dovrebbero essere un settore anticiclico, invece è diventato un settore ipercyclico, è il settore che ha registrato la maggior mortalità di occupati e di valore aggiunto, è il settore con le più alte sofferenze rispetto bancarie rispetto a tutti gli altri, quindi un settore che è entrato in una crisi proprio negli anni in cui invece magari bisognava aspettarsi e soprattutto prodigarsi per il contrario. Ecco, un certo numero di costruttori di taglia piccola e media ci hanno scritto sistematicamente, in realtà nei mesi dallo scorso marzo-aprile, cioè da quando al Consiglio dei Ministri è andato il decreto legislativo di attuazione del nuovo codice degli appalti e di recepimento delle direttive europee, hanno iniziato a scriverci manifestandoci crescenti preoccupazioni sul nuovo codice degli appalti. Nel frattempo siamo nella fase transitoria tra la piena entrata in vigore e le vecchie regole del codice degli appalti, e il numero di coloro che ci hanno scritto del settore è cresciuto al punto tale che ci siamo detti: bene, allora dedichiamo una trasmissione esattamente a queste preoccupazioni e organizziamola come una trasmissione di servizio, cioè in maniera tale da scegliere uno di loro che espone le sue preoccupazioni e di fare in modo che ci sia anche la risposta della controparte pubblica istituzionale relativamente ai temi che sono sollevati. Allora, la materia, mi rendo conto cari ascoltatori, è un po' tecnica. Naturalmente io invito tutti i piccoli costruttori, i medi costruttori a telefonare all'800 24 0024 per dirci che cosa pensano delle tantissime novità rappresentate dal codice degli appalti e in particolare se siano soddisfatti o meno del combinato disposto tra le nuove regole di trasparenza, più o meno sapete tutti anche se non siete del settore che questo nuovo codice degli appalti nasce come risposta ai tanti scandali nel settore delle infrastrutture e opere pubbliche dopo il MOSE. Abbiamo visto che anche a Expo è successo qualche cosa che non era proprio in regola e dopo tantissimi altri casi di questo genere, la scelta, per essere molto sintetici, è quella di una soft law affidata in moltissimi punti qualificanti del nuovo codice degli appalti esattamente all'autorità anticorruzione di Cantone, e sono tantissime in realtà le novità del nuovo codice degli appalti. Però sono anche, fin dall'inizio, fin da marzo e ancora all'assemblea ANCE che c'è stata la settimana scorsa, giovedì scorso, tante le preoccupazioni che l'associazione costruttori ha avanzato nel mentre procedeva l'iter dell'esercizio della delega legislativa affidata prima con la legge delega, poi con i decreti legislativi di attuazione, su moltissimi punti, sul potere non solo nella fase di transizione ma anche successivo che viene conferito alle stazioni appaltanti rispetto ai subappaltatori, sulle commissioni giudicatrici, e su moltissime altre cose, a dirvi la verità. Queste preoccupazioni si innestano poi sul fatto, sui dati abbastanza preoccupanti dei primi mesi di quest'anno, in cui si registra, proprio in attesa della piena entrata in vigore, per capire meglio il nuovo codice degli appalti, una frenata ulteriore delle gare che oltretutto si incardina su 5 anni alle nostre spalle in cui proprio le piccole imprese del settore i numeri su questo sono evidenti, hanno registrato una diminuzione enorme del numero di coloro, piccoli imprenditori, che hanno visto l'affidamento dei lotti di opere pubbliche. Pensate che nel 2015 il numero totale dei lotti che vanno alle piccole o medie imprese di costruzioni è pari solo al 73% di quelle del 2011, per essere chiari. E quindi stiamo parlando di una cosa quindi che apparentemente dall'inizio dell'anno ha effetti opposti a quelli che si immaginava. Allora, vi spiego subito come funziona la trasmissione. Innanzitutto abbiamo, per coloro che ci hanno chiesto di dar voce ulteriormente oltre a quelli che sono già avvenuti nei diversi convegni succedutisi nell'anno da parte dell'Associazione Nazionale Costruttori, ai loro dubbi che restano forti e motivati per i piccoli costruttori sul testo che sarà poi quello definitivo sul periodo transitorio, abbiamo con noi l'ingegner Paolo Di Cintio, che è appunto un costruttore edile. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno Oscar Cendino. E in risposta alle osservazioni che verranno da Di Cintio, e naturalmente io lo prego ancora una volta di esprimersi in maniera chiara anche per non gli addetti ai lavori, per così dire, abbiamo come risposta istituzionale colui che è stato il relatore del parere parlamentare e della legge delega, quindi un senatore del PD, Stefano Esposito. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato questo ruolo. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ingegner Di Cintio, cominciamo e cerchiamo di enucleare in sintesi almeno alcuni dei problemi che secondo voi sono e restano ancora gravi e irrisolti. Sì, buonasera innanzitutto e grazie di questa convocazione, perché mi sembra abbastanza interessante sotto l'aspetto dell'interesse che evidentemente questa trasmissione vede rispetto al problema. Io partirei da una cosa semplice che è poco tecnica, ma forse perché poco tecnica viene capita un po' forse da tutti. E cioè la direttiva 24/2014 dell'UE chiedeva sostanzialmente quattro cose prevalentemente: una maggiore flessibilità e semplificazione delle procedure, una promozione delle procedure di appalto informatizzate e soprattutto, dico io, per quello che riguarda le imprese di costruzioni, quelli che hanno, cioè gli operai, quelli che costruiscono realmente, il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato delle piccole e medie imprese e la maggiore vigilanza sulla correttezza delle procedure con l'introduzione di più efficienti norme sui conflitti di interesse e sui comportamenti illeciti. Sì. Allora, se noi andiamo a guardare questa cosa sotto l'aspetto delle richieste della Unione Europea, ci accorgiamo che peraltro poi l'Unione Europea parla, all'articolo 1, del fatto che tutto questo evidentemente doveva essere vigilato sopra la soglia comunitaria. Sì. La soglia comunitaria significa un importo di 5 milioni e rotti, in particolare 5.186.000 euro, che è l'importo oltre il quale l'Unione Europea dice che è interesse comunitario. Quindi tutto ciò che avviene da questo importo in su deve essere trasparente per tutta l'Europa e deve essere condiviso su tutta Europa sui principi. Sì. Tutto il resto è legge nazionale. Ora, già il fatto che questa normativa nuova, questo nuovo codice, sia entrato a piedi uniti su tutta la materia e quindi evidentemente anche sotto soglia comunitaria in maniera deregolamentatrice, perché si parla praticamente di una soglia di 1 milione di euro sotto la quale avvengono alcune cose che poi mi dirà caro Oscar se posso dilungarmi, alcune cose da 1 milione in su, quindi praticamente il mercato è stato, della piccola e media impresa è stato distrutto, perché da 1 milione in giù si applicano sostanzialmente dei meccanismi che poi finiscono con essere, e evito i tecnicismi perché altrimenti ne usciremo fra 3 ore, sostanzialmente nel fatto che la stazione appaltante fino a 350.000 euro circa può invitare 5 imprese, è obbligata a invitare almeno 5 imprese, fino a 1 milione è obbligata a invitare fino a 10 imprese almeno, e da 1 milione in su si va con l'offerta cosiddetta economicamente più vantaggiosa. Allora, evidente. Aspetti, che io do un elemento a chi ci ascolta. Queste soglie, sì, hanno importanza perché pensate che se guardiamo i dati del 2015, l'84% delle gare per i rispettivi lotti è esattamente nella fascia tra i 150.000 e il 1 milione di euro. Perfetto. Allora cosa succede? Che a questo punto qualunque stazione appaltante, e io voglio parlare soltanto di atteggiamenti leciti, non di atteggiamenti illeciti, che peraltro sono all'ordine del giorno alla cronaca della magistratura, ma anche soltanto fossero atteggiamenti leciti, determinano questo, che ciascuna stazione appaltante ha il strato sul collo dell'impresa e del proprio territorio e invita solamente quelle. Quindi abbiamo perso in una frazione di secondo, quindi il giorno 18 aprile, abbiamo perso il mercato delle costruzioni. Io ho fatto lavoro in tutta Italia, ciò non toglie che non verrò più chiamato, perché non c'è nessun motivo perché il sindaco di Caltanissetta o di Trento debba invitarmi, perché avrà sulle spalle una serie di imprese che stanno morendo, perché stiamo morendo tutti, che evidentemente pregheranno questo signore, ma senza nessun compenso, sia ben chiaro, quindi in maniera assolutamente lecita e trasparente, di invitare soltanto le imprese locali, e così sta avvenendo in tutta Italia. Dunque abbiamo perso un mercato, torniamo al mercato medievale, quello del cavallo, cioè dove arriva il carretto? L'economia si svilupperà dove arriva il carretto. Ma possiamo nel 2016 fare una limitazione al mercato quando invece la normativa, il decreto UE stabiliva miglioramento delle condizioni di accesso al mercato delle piccole e medie imprese? Praticamente questa legge è non solo, io dico, tremendamente scritta male, cioè un bambino di 6 anni l'avrebbe scritta meglio, perché hanno scritto persone incompetenti, ivi compreso l'ex comandante dei vigili urbani di Firenze, e lei sa a cosa mi riferisco, lo dica lei, non lo voglio dire io. Evidentemente, quindi c'è un principio in base al quale io fossi l'UE direi questo codice va buttato alle ortiche. Dopodiché possiamo vedere anche il discorso sopra il milione di euro, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Cosa significa? Che un progetto esecutivo, e questo è forse l'unico aspetto positivo del codice, che cioè impone alle stazioni appaltanti di andare in gara con i progetti esecutivi, questo per cercare di migliorare quello che va in gara e soprattutto evitare che le imprese, e lo dico io che faccio impresa, possano mistificare i progetti definitivi a loro immagine e somiglianza. Cioè quindi, possano procedere poi nel tempo come invece è regolato, con le varianti in corso d'opera, con l'esplosione del costo reale finale rispetto all'inizio. Perché l'ANCE di questo ha fatto una propria battaglia, certo. L'ANCE è per la trasparenza e per la chiarezza dei rapporti tra progettisti e stazioni appaltanti. Noi vogliamo costruire perché siamo costruttori, abbiamo gli operai. Se dobbiamo fare altre cose va bene, però diventiamo concessionari ed altro. Però diceva, al netto di questa cosa positiva, cioè di virare verso il progetto esecutivo invece dei progetti generali poi sottoposti a innumerevoli varianti, diceva sopra la soglia del milione? Che succede questo? Che la stazione appaltante può aggiudicare praticamente chiedendo alle imprese partecipanti tutte, perché c'è un bando, di fare delle offerte migliorative. Cioè, faccio un esempio banalissimo. Se c'è l'infisso che ha un abbattimento termico di 1, io di 0,9 io propongo 1, allora prendo più punti di quello che ha fatto 0,95, tanto per capire. Sì. Ora però cosa succede? Che fa numerico, la bellezza, la qualità, che sono associate alla scelta di aggiudicazione. Aspetti che la qualità del collegamento purtroppo non ci consente di capire cosa dica. Allora noi facciamo una cosa, anticipiamo i 60 secondi di informazione sul traffico, lei finisce a questo punto sopra il milione sull'offerta economicamente più vantaggiosa e spieghiamo poi a quel punto in che cosa è diversa da quella a ribasso che ha creato disastri negli anni alle nostre spalle, e poi consentiamo intanto al senatore Esposito di dargli una serie di prime risposte. Traffico. La versione di Oscar. Eccoci in diretta per questa trasmissione di servizio che raccoglie, per così dire, attraverso un portavoce, ingegner Paolo Di Cincia, costruttore edile, le preoccupazioni che molti piccoli costruttori in questi mesi ci hanno espresso in relazione al nuovo codice degli appalti, che adesso è, diciamo, nei mesi transitori di attuazione rispetto al fatto che dopo la legge delega c'è stato il decreto legislativo nello scorso aprile, e Paolo Di Cincia ci ha spiegato, che adesso ci sarà la risposta poi del senatore Esposito, che in Senato è stato relatore della legge delega e poi del parere parlamentare sul decreto. Paolo Di Cincia vi ha spiegato innanzitutto sotto la soglia del milione quali sono le preoccupazioni rispetto alle stazioni appaltanti che finiranno, ci ha detto, per chiamare le imprese territoriali in forte difficoltà, e quindi altro che migliore accesso dei piccoli e medi costruttori nelle gare, ci sarà un accesso restrittivo. E ci stava spiegando sopra il milione sulla offerta più economicamente più vantaggiosa, ripeto, che sostituisce quelle a ribasso che ci hanno prodotto scie di anni di disastri e di illeciti da questo punto di vista, però lì poi non si è più sentito, quindi lo pregherei Paolo di ricominciare esattamente da questo punto. Benissimo, grazie. Allora, molto semplicemente le questioni sono queste. Allora, se la stazione appaltante deve scegliere tre tecnici o amministrativi per verificare qual è l'offerta migliore, più vantaggiosa, e questo lo si fa con dei criteri che non sono oggettivi, perché non sono sempre oggettivi, anzi al 90% sono soggettivi, è chiaro ed evidente che anche qui si può arrivare a un sistema che non è trasparente, perché è evidente, io in Ance facevo sempre una battuta, che poi alla fine si è rivelata la stragrande verità, e cioè questo sistema di gara a me ci piace moltissimo, se la terna è mica mia, ma se è mica tua no. Allora questo è il problema, e siccome in Italia abbiamo visto cosa sta succedendo nei sistemi che aggiudicano i lavori pubblici, io devo, purtroppo mi trovo a non essere fiducioso rispetto a... Perché, ripeta un secondo, chi la sceglie la terna? La sceglie la stazione appaltante. Ecco, mi sembra chiaro. Le dico una cosa importantissima, Oscar, e tenga presente che quando Cantone venne da noi in consultazione in ANCE, parlavamo di questo prima del fatidico 18 aprile, lui era d'accordo con noi sul fatto che la terra dovesse essere espressione dell'ANAC, l'anticorruzione, e che fosse a sorteggio su tutto il territorio nazionale. Dopodiché è arrivata a Piedi Uniti sia il Consip ma soprattutto l'ANAS, dicendo: ma noi abbiamo dei tecnici bravissimi. Esattamente. Mi fa piacere che lei abbia esattamente fatto i nomi di coloro che poi hanno fatto le pressioni. Ma io devo fare i nomi, perché nel nostro mondo, se stiamo seduti intorno a un tavolo e tutti facciamo questo mestiere, la verità la conosciamo tutti. Esatto. Allora, qualcuno la dica. Allora, lei ha espresso, spero con sufficiente chiarezza anche per chi non ha detto ai lavori, i rischi che voi vedete sotto e sopra la soglia del milione. Sentiamo l'opinione del senatore Esposito, prego. Ma intanto di nuovo buongiorno. Ma guardi, io lo dico naturalmente in maniera molto rispettosa, ma l'ingegnere che è intervenuto, credo gli manchino molti pezzi del codice degli appalti, perché ha detto una serie di cose che non sono imprecise, sono proprio totalmente sbagliate, quindi adesso proverò per quanto possibile senza fare nessuna valutazione, ma no, dispiegare, ma noi siamo qui per questo, appalti, esatto. Citando il codice degli appalti, quindi non facendo nessun tipo di propaganda. Ma intanto l'inquadramento del codice degli appalti dobbiamo darlo ai nostri telespettatori, cioè noi usciamo da un codice degli appalti di quasi 700 articoli tra codice e regolamento. Codice fatto nel 2006, regolamento nel 2010, già questo dovrebbe dire molte cose. Un codice degli appalti che non ha garantito minimamente né la competitività e la competizione tra le imprese, né men che meno la trasparenza. Non direi, ogni 3x2. Soprattutto in un contesto nel quale è stato utilizzato a man bassa il sistema del massimo ribasso, con messa in gara di progetti definitivi che, quando andava bene, erano definitivi. In molti casi erano dei preliminari spacciati da definitivi, che cosa hanno prodotto? Varianti, riserve. Quindi tu facevi il massimo ribasso sulla realizzazione di un'opera, avevi un ribasso del 50%, poi andavi a vedere alla fine dell'opera, avevi pagato 130 rispetto a quello che, perché naturalmente, diciamo, questo era il gioco. Noi quindi siamo partiti da lì, e siamo partiti peraltro con un'analisi che era condivisa anche dall'ANCE: bisogna superare il massimo ribasso, benissimo. Ci siamo concentrati soprattutto sul tema delle gare piccole, e mi dispiace, qui c'è un primo elemento che non funziona. Sì. Non è assolutamente vero che sotto il milione il meccanismo è quello raccontato, perché è vero che ci saranno la necessità di invitare almeno 5 imprese o almeno 10 imprese a seconda degli importi, ma deve essere istituito un albo e deve essere fatta la rotazione delle imprese. Quindi non è come dice l'ingegnere, perché se la sua impresa ha partecipato vincendo ad un lavoro, va bene, la volta successiva in quel comune la sua impresa salta un giro, perché tocca a qualcun altro. Altro che chiudere la competizione, noi la stiamo aprendo la competizione. E questo è un elemento che è scritto a chiare lettere nel codice degli appalti. Poi, per carità, naturalmente io non pretendo che tutti abbiano la conoscenza dettagliata di 220 articoli, ma questo è. Sopra il milione, e quindi l'albo viene costituito prima, tutti possono accederci, e l'invito che viene fatto è un invito che vale per una volta, poi salto sicuramente un giro e tocca a qualcun altro. Tenga conto che il Parlamento non era per la soglia del milione. Sì. Cioè la soglia del milione è stata voluta pervicacemente dai comuni, dalle regioni, in accordo con l'ANCE, che addirittura avevano proposto di andare a 2 milioni e mezzo. Chiaro? per mettere in campo l'offerta economicamente più vantaggiosa. La mediazione ha portato al milione, ma la richiesta e il punto di mediazione che era stato raggiunto in Parlamento era quella della soglia dei 500.000 euro, perché purtroppo, non solo per la percentuale di appalti sotto il milione, che lei ha ricordato perfettamente, l'84%, ma anche per quello che vediamo quotidianamente, non è soltanto sulle grandi opere. Poi in questo paese un giorno, se facessimo l'elenco di quali sono le grandi opere, Giannino, io sarei contento, devo dirle la verità, no? Perché se ne parla tanto, poi andiamo a vedere, scopriamo, diciamo, la pochezza della capacità di realizzare grandi opere in questo paese, gli imprenditori si confrontano con quella fascia di appalti dove si ruba, Giannino, è chiaro, si ruba. E noi abbiamo provato a mettere in campo uno strumento, degli strumenti perché si possa rubare di meno, perché non esiste legge, come lei mi insegna, che possa fermare un mariuolo. Gli puoi costruire una cornice stretta per evitare che lo faccia. Sopra il milione, e qui io la domanda però la voglio fare, la faccio io all'ingegnere, perché lui ha dichiarato, parlando peraltro del vecchio meccanismo della offerta economicamente più vantaggiosa, perché sono d'accordo anch'io con lui e con Cantone, ne abbiamo discusso molto, riprodurre l'attuale meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa significa semplicemente mettere in campo un sistema opaco. E tant'è che noi l'abbiamo corretto in due modi. Il primo, c'è una linea guida di quelle già mandate in Parlamento da parte di Cantone, che cambia il meccanismo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa. Non mi addentro perché è una formula matematica, ma nella sostanza si riduce la soggettività della commissione. La discrezionalità, va bene? Discrezionalità e soggettività della commissione, avendo la commissione la possibilità di godere di una percentuale del 60% per quanto riguarda la qualità del progetto rispetto al prezzo. Ma soprattutto abbiamo istituito l'albo dei commissari, e quindi non c'è più il gioco della stazione appaltante che si sceglie i commissari. E guardi che questo, anche su Consip e ANAS, vale, perché loro avranno semplicemente un albo dedicato, un albo di commissari a cui si dovranno comunque rivolgere, che quindi è tenuto presso l'ANAC, che se hanno bisogno di 3 commissari gliene manda sei, e poi in sede locale devono fare il sorteggio su quei 6. Quindi, per quanto ribadisco, non esista legge che possa fermare un mariuolo e un mascalzone, noi abbiamo messo in campo tutto il disponibile per rispondere esattamente alle preoccupazioni che sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche per il sotto soglia al milione, l'ingegnere. Quindi credo che lui abbia perso qualche passaggio da questo punto di vista. Dopodiché la domanda gliela faccio io. Ma lei, tra l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come gliel'ho spiegata io, e non come giustamente lei la conosceva, perché avrebbe ragione a dire quello che ha detto, preferisce il massimo ribasso? Ecco, io no. Allora, no. Sentiamo un secondo cosa ci dice in controreplica Paolo Di Cinto. Sì, allora, intanto vorrei spiegare all'onorevole che io faccio parte della referendum per i pubblici bilanci, e questa materia non solo la conosco molto bene, ma sono mesi e mesi e mesi che ci lavoriamo sopra. Quello che ha detto lui è in parte vero, in parte una buttata di valica, diciamo che non è chiaro. Cioè, è vero che l'opzione più vantaggiosa è in corso di, perché le linee guida non sono ancora uscite finalmente. Non si sente. Il problema è che o purtroppo si sposta, oppure non avremo la sua controreplica, perché non riusciamo a sentire rapidamente. Andiamo su Oriano, che ci chiama dalla provincia di Torino. Proviamo a richiamare il nostro ingegnere Di Cinto. Oriano, prego, rapido. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Io dissento fortemente, ecco, dall'intervento del collega costruttore. Io lavoro, sono la terza generazione, siamo una microimpresa che lavora sul territorio del Piemonte Ovest, e le spiego il perché dissento. Ecco, secondo me il fatto di sostenere, di aprire la concorrenza facendo intervenire imprese da centinaia di chilometri per eseguire lavori che sono di alcune centinaia di migliaia di euro, come avete indicato, no? L'84%, siamo sotto il milione. Sì. È una cosa che economicamente non sta in piedi, e ritengo che qualsiasi stazione appaltante degna di questo nome possa tranquillamente confutare la tesi del collega, andando a vedere che almeno sul mio territorio, che conosco abbastanza bene, tutte le opere pubbliche di importi modesti, se vogliamo, appaltate ad imprese che arrivano Ma sono locali, sì. No, chiarissimo. Allora, non c'è possibilità. Non le voglio levare di far fronte. Ha spiegato come la pensa. Torniamo rapidamente da Paolo Di Cintio. Rapido, prego. Allora, la ragione, cioè, le imprese portano localmente, però che vuole localmente. Niente. Perché non posso andare a fronte. Niente, c'è poco da fare. Io ci ho messo la buona volontà, però così non riusciamo a capire neanche un decimo di quello che dice Paolo Di Cintio. Io purtroppo devo dire, il tempo è passato. Io ringrazio entrambi i nostri ospiti. Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento. Grazie per Stefano Esposito e a Paolo Di Cintio. Intanto la borsa di Istanbul chiude a meno 7,14%. Qualunque cosa pensiate di Erdogan nel prossimo futuro della Turchia, questa è la prima reazione del giorno di trattazione della borsa di Istanbul. Continua su Radio 24, appuntamento alle 8:15 ogni mattina con me, Alessandro Minelli. Attenti a noi due.